Jay, mete il disco. Mi è salita la pasta. Ma sai che meglio che vado a casa. La canzone di Umberto fa na na na na na, na, na con sotto Umberto 2